Professore, sono Cruciani, volevo chiarire che è successo. Guarda, no, se ti incontro, guarda, ricordo, mi porti in processo, ma guarda, ti faccio vedere, sei un mascar, non ti essere lontano perché tu sei un delinquente. Arrivederci. La zanzara. Tutto il resto è gioia. Ottima trasmissione, sempre la visione. Non ho detto gioia. Pasquale, la sera vuole la battaglia e vuole sangue e merda. Sangue e merda, chiaro? Vai a vedere una cosa pazzesca. Che tempi, che tempi. Pronto? Ciao Cruciat. Buonasera, non metti mano alle pistole, vero? Ti prego. Ti prego. Ma sei fissato con questa cosa? Sì, tu? No, mi martella la testa, guarda. Ti prego. Mi martella la testa. Ti prego. No, stupendo. Perché uno più gli chiedeva cose, lo incalzava e lui. Ti prego. Bellissimo. Ma ti hanno fermato. Ho fermato ero nel Mugello con degli amici a mangiare la carne nel Mugello. Mi hanno fermato in trattoria, mi hanno guardato e detto Parenzio, ti prego, e io non capivo. E continuavano, ti prego, e io non capivo. Allora, amici della Zanzara, popolo della radio. Buonasera, buon lunedì. Ma no, basta, no, con questi saluti. Ma ancora insisti. Ma non hai imparato niente, ma fa schifo salutare, è una cosa orribile, tremenda. Aspetta un attimo. Sì. Allora, che succede? C'è una polemica in corso incredibile, perché in Puglia, dove sono svolte le primarie, sì, hanno litigato, prima hanno litigato Vendola e Emiliano, poi sono riappacificati. Ti prego. Adesso hanno litigato, non mi fare ridere subito, sì, hanno litigato Vendola e il coordinatore di NCD. Lo so che è faticoso pronunciare questo acronimo, pronunciare questo simbolo, questo nome, eccetera. Nuovo centrodestra, si chiama Cassano, non è il calciatore, non è parente del calciatore, però si può dire che ha fatto una cassanata, diciamo, no? Signor Massimo Cassano, il quale ha detto, dopo commenteremo, cercheremo un po' di pizzicarlo anche. Signor Vendola, la vera differenza, inutile che vi spiego l'origine della polemica perché non me ne può fregare di meno. Signor Vendola, la vera differenza tra me e lei sta nelle mani. Nelle mani, avete presenti le mani? Guardatevi le mani, tutti voi che siete all'ascolto, guardatevi le mani. Siete maschi, uomini, femmine, quello che siete, froci, transessuali, puttane, prostitute, autisti, uomini di fatica, eccetera. Guardatevi le mani, la vera differenza tra me e lei sta nelle mani. Le sue sono fresche di continue ripassate dalla manicure. E rivolto a Vendola, come dire, no, Parenzo. Le mie hanno i calli che distinguono questo scoreggia. Adesso scoreggia pure, vai, scoreggia. No, se vuoi scoreggia pure. C'è una differenza però. Beh, tra avere una tosse malarica. No, non c'è alcuna differenza. Malarica e no, avere... ma scoreggia se vuoi, scoreggia. Ma quello allora, non mi permetto di farlo. Le mie hanno i calli che distinguono chi è nato nelle periferie diroccate delle nostre città del sempre un discorso di Vendola, tra l'altro, nelle periferie diroccate delle nostre città del sud. Ed è stato accusato di omofobia. Qualcuno chiede addirittura le dimissioni, perché il signor Cassano, oltre ad essere senatore di NCD, è anche sottosegretario al lavoro in quota Alfano. Tornato Berlusconi a parlare, caro Parenzo, al No Tax Day a Milano. Devo dire che la scena mi ha messo una profonda tristezza. Non so perché tristezza. Ma un po' mi ha messo tristezza, non tanto Berlusconi in quanto tale. Quello che dice, questa cosa degli anziani, l'implantologia, la dei denti. Beh, quello è un problema, eh. Ma sì, vabbè, ma ragazzi, di che ti stiamo riguarderà parlando? A te molto prima che a me, ad ma esempio. Sì, quello può darsi, se già non mi riguarda. Sì, ho dei denti un po' marci, io, no, insomma. Mica quello per l'età, perché tu hai ormai le cataratte. Sei... Poi quando intende le cataratte, che sono le cataratte? Solo le cataratte, le cataratte che sono all'occhio, all'occhio si va, all'occhio, perché lui ha avuto un problema, sì. No, gli anziani hanno problemi alla cataratta, anche i giovani. Vabbè, ma perché uno in un comizio deve parlare di cataratte? Cioè di cataratte, amico mio, sì, va bene. Può darsi che noi non capiamo niente tutto questo. Cioè, chi parla di cataratte e chi parla di scontrini, amico mio, non è sì, che... vabbè, quello, eh? Quello adesso, adesso approfondiremo. Sentiamo Berlusca, dai. Quando io vado al sud trovo tantissime persone anziane che non hanno i soldi per andare dal dentista, quindi implantologia dentaria gratuita, operazione alla cataratta gratuita, i ticket sanitari. Però bisogna pure dire che non vuol dire un cazzo questa roba. Che vuol dire le cataratte gratis? Beh, vuol dire che è un'operazione. Ma che chi non su ha questo il reddito è gratis. Berlusca, ha ragione. Ma è gratis. Per chi non ha il reddito è gratis. No, lui comunque vorrebbe estendere la cataratta. Ma non vorrebbe estendere niente, amico. Ma non vorrebbe estendere nulla. Non lo so, dai, a me fa tenerezza ultimamente. Poi Berlusca, appunto così. Diciamo agli no, ma mi piace, cioè, mi, sì, vabbè, tenerezza, sì. Però hai usato la parola giusta, sì. Diciamo sì. Agli anziani di parlare con i coetanei di noi. Questa è la cosa. Cioè l'allargamento di Forza Italia. Diciamo agli anziani di parlare con i nostri coetanei. Beh, su, ti prego. Abbiamo fatto degli esperimenti, ci sono le persone anziane, i cosiddetti, li chiamiamo alla latina seniores, che hanno esperienza di vita, hanno equilibrio, hanno buon senso, hanno anche del tempo, e a loro dobbiamo andare a dire: parlate con i vostri coetanei, raccontategli come stanno le cose e magari raccontategli anche quello che qualcuno dice che noi non abbiamo, i contenuti, il programma. Il programma no, il programma no. Ecco, il programma, metto mano alla pistola, Parenzo. Il programma no, il programma, non esistono i programmi, non esistono i programmi. Sentiremo Berlusconi più avanti, Però la flat tax è bellissima, senti, che poi la flat tax, no? La, quella che sì, propone Salvini, la tassa al 20%. Questo, tassa unica. Questo, senti come lo pronuncia? La tassa piatta, la flat tax. Per tutti al 20%. È fondamentale ed è la nostra bandiera, il nostro cannone, la nostra atomica per ritornare alla guida del paese. A parte che l'ha proposto Salvini di recente, è un'idea di Salvini, se vogliamo. È una sua vecchia idea dal 94. Ma poi la flat task, quella è la task force, si è sbagliata. Quella è un'altra roba, si è sbagliata. La task force. Salvini dice al 15, ma no, non credo al 15. Vabbè, prima di presentarvi un ospite, una frase che ha fatto molto discutere, la russa che dice i rom sono culturalmente ladri. Oggi discute molto anche di una foto che ha fatto vedere il presidente della regione Toscana insieme ad una famiglia rom, suoi vicini di casa. Bellissimo, Rossi, presidente e poi Rossi. Ha parlato di destra fascio leghista. Molto bene. La russa. I rom non fanno estorsioni, i rom rubano tutto il rame che trovano sotto mano. Ladri secondo lei? Geneticamente no, perché cioè il razzismo. Hanno il DNA ladro. Culturalmente ladri sì, così come diciamo che culturalmente quasi, i francesi amano l'amore, così come diciamo che culturalmente gli italiani amano la musica, i rom culturalmente sono ladri. Senatore Giarrusso! È sempre inciampate là, Ma io sempre lo faccio apposta, perché fra poco tornerete a chiamarvi senatori. Quando... Ma che cittadini, per favore, quando finirà? Se lo dimentica. Quando finirà, Giarrusso, questa sorta di dittatura grillina? E fra poco avete fatto un direttorio. Dobbiamo dunque, ancora cominciare. Sì, però siamo già in un'altra fase, siamo nella fase del direttorio. Ecco, poi dopo il direttorio lei sa. Siamo sempre oltre. Però io scusi un attimo, senatore cittadino Giarrusso, innanzitutto buonasera, cittadino Giarrusso. Buonasera a voi. Buonasera. Allora, io la cosa che le voglio dire è questa, ma le pare possibile che vi siete incartati su questa storia degli scontrini, delle espulsioni? Qui ci sono state. No, ma quale scontrini? Ma quale come? Scontrini? Scusi. No, non si parla di questo. Stavolta proprio non si parla di questo. Beh, si parla. No, anche di questo. Di voi che siete sempre così. No, si parla anche di questo, l'origine di tutto. No. Come no? Esattamente, non si parla degli scontrini. E del direttorio? Si parla del direttorio. Si parla del rispetto delle regole. Decisioni dell'assemblea. Ho capito, ma non è passato nulla è passato dall'assemblea. No, per... no, aspetti un attimo, l'assemblea aveva deciso dove restituire e dove rendicontare. E niente di tutto questo era stato fatto ovviamente dagli espulsi. Quindi, ma anche da altri, anche da altri, non solo da quelli, anche da altri. Anche da altri. Questo lo ignoro. Bisognerà questo verificare, perché in ogni caso. Cioè, le espulsioni sono state giuste secondo lei? Allora, mi ascolti, io sono sempre stato contrario alle espulsioni perché sono cose dolorose. Però bisogna dire che la Pinna, da quando è arrivata in Parlamento, aveva iniziato a restituire in maniera difforme da come aveva deciso il gruppo. E Artini? Aspetti, e l'aveva fatto in una maniera particolarmente odiosa, cioè facendosi pubblicità e campagna elettorale con i soldi pubblici. Cioè la Caritas, quando io faccio beneficenza con i soldi pubblici sul mio territorio, sto facendo un'azione che noi gli avevamo detto tante volte che non doveva fare, che non era consentita. Ho capito. Se uno vuole fare beneficenza nel proprio territorio, lo fa con i propri soldi. Sì, però sono minuti. E Artini? Allora, per Artini la situazione è più complessa, molto più complessa, perché Artini contestava il sistema del tirendiconto. Ora, che abbiamo mosso delle critiche al sistema del tirendiconto, l'abbiamo fatto in tanti, però... ma questo non voleva dire organizzare tramite quello un attacco alla gestione del movimento. Oggi parla di fascismo addirittura Artini. Io capisco che Artini è ovviamente sconvolto da quello che è successo. Ma è stato giusto che umanamente è comprensibile, però non lo possiamo giustificare sotto questo punto. Cioè, ma sono state giuste queste espulsioni o no? Al di là della sua contrarietà, di guardi, hanno deciso gli attivisti. Ma ho capito, prima bisognava passare dall'assemblea. Le regole assurde, secondo me, che avete deciso voi erano queste: prima l'assemblea e poi il web, il cosiddetto web. Ma la rete. Allora, Beppe ha detto una cosa chiara, che non voleva vedere divisioni come le aveva viste nelle precedenti assemblee. Per cui si cacciano quelli che... Tra i parlamentari, che è stato un'esperienza molto molto lacerante. Quindi ha pensato di risparmiare al movimento un momento difficile. Espellendo le mele marce, dice lei. No, proponendo l'espulsione agli attivisti. Ho capito, ma bisognava passare da un'altra parte. Guardi, sì o no? Sì o no? Ha una funzione di garante. Ho capito, cioè quello che decide va comunque bene. Non è questione che quello decide. Ha pensato di intervenire in questo modo. Violando una regola che vi siete dati. Delle funzioni che ha sempre detto che avrebbe esercitato, di garanzia. È intervenuto perché lo riteneva opportuno. Nell'interesse del movimento. Ma è vero che è stata violata questa regola di passare prima dall'assemblea, sì o no? Guardi, in Senato è chiara questa regola. Appunto. Purtroppo abbiamo due regolamenti diversi, però, Camera scusa. E Senato. C'è stato purtroppo. Ma è vero che è stanchino o no? Un mancato coordinamento. No, non è stanchino. Beh, lui l'ha detto. È giustamente. Ovviamente affaticato da dover seguire tutto il movimento da solo, con Gian Roberto, che peraltro, come sapete, con Gian non sta molto bene. Che c'ha? Che ha? Quindi, no, questo lo sapete, avete stato operato. No, di cosa? No, non sappiamo niente. Di che... Che lo sapete? Quando è andato in giro col cappellino, sapevate che ha avuto un... Sì, avevo letto io. Sì, ha avuto un intervento, ma come sta adesso? Ma io spero bene, da un pezzo che non lo vedo, mi auguro che sia in via di guarigione. Cioè ha lasciato un po' la gestione al figlio, diciamo. Guardi, su queste cose... No, mi pare di aver letto... Con l'interessato. No, ma lo chiedo anche a lei, perché anche i giornali hanno scritto che Davide... Che è un po' bizzarra Casaleggio, questa cosa, che è un po' bizzarra. Sta gestendo... non abbiamo avuto. Io so che Davide collaborava già da tempo, da anni, col padre. Sì, ma nessuno sa nulla di questo coinvolgimento, non c'è nulla di ufficiale. Ma scusi... Com'è possibile però? Andare a discuterne noi, soprattutto se riguarda una questione di salute di una persona. No, ma in questo caso non era i motivi di salute, era il fatto che ruolo ha questo Davide Casaleggio? È ufficiale, non è ufficiale? Molti si arrabbiano anche per questo. La Casaleggio associati, come ci lavorano tanti altri. Ma molti si arrabbiano per il fatto che abbia un ruolo fondamentale invece. Un po' dinastico, cioè, no? Che abbia un ruolo fondamentale, questo lo sta dicendo voi. La cosa credo importantissima è che Beppe ha chiesto di essere supportato da alcuni dei nostri colleghi. Supportato adesso. Che faranno. Ma anche questi sono stati scelti direttamente. Ma sono stati scelti direttamente da lui e senza un passaggio anche là tra i gruppi parlamentari. Poi certo sono stati sottoposti al voto. Sono stati scelti dagli attivisti che hanno accettato la proposta di Beppe. Vabbè, ma diciamo anche votare contro. Ma come mai proposta? Da quel blog escono solo voti a favore di Grillo, delle proposte di Grillo? È un po' strano, cioè, è un po' strano o no? Ma magari le condividono? Sì, però ma al 91%? Ma io vi ricordo, amico vi ricordo, mio, sembra Kim Il-sung, che sembra non erano proprio, diciamo così, in linea con le aspettative. Quello dell'incontro con Renzi, no? Che Beppe era contrario. Sì, è vero, questo è vero, questo è vero. E altri che hanno riguardato l'immigrazione, vabbè, che si riteneva più opportuna. Scusi, amico mio, volevo chiedere... Un attimo solo, fermi tutti che c'è una cosa fondamentale. Adesso torniamo dopo il traffico. Aspetta. Fondamentale. Sì, aspetta. La Zanzara. Siamo qui con il senatore Michele Giarrusso del Movimento 5 Stelle, cittadino Giarrusso. Io vorrei farle un'altra domanda, però lasciamo perdermi un attimo i vostri problemi. No, perché qui mi chiedono come mai il suo rendiconto è fermo a giugno. Ah, com'è che è fermo a giugno il suo rendiconto? È una domanda giustissima. Aia, quando uno dice così è finita. No, niente, perché tutti i rendiconto sono quasi tutti fermi a giugno, perché da accordo fra all'interno dei gruppi di Camera e Senato la rendicontazione era obbligatoria fino a giugno. E dopo? Dopo, a breve, credo entro dicembre o il primo di gennaio, si aprirà l'altra rendicontazione per i mesi successivi. Vabbè, ci saranno altre espulsioni? Ci saranno altre espulsioni, secondo lei? No, che espulsioni? Non ci saranno più espulsioni. Ci stanno ricamando sopra la stampa, non scherziamo con queste cose. Mi raccomando, allora lei qua dice non ci saranno altre espulsioni. No, non penso proprio. Però c'è gente che se ne vuole andare, ho letto, da qualche parte. Ma... c'è Maretta. C'è gente che da loro. Io c'è Maretta, direi, amico mio, c'è Maretta. Tutti alla calma e agire nell'interesse del movimento e del nostro paese. Beppe è una persona per bene e ha fatto quello che riteneva giusto nell'interesse. Alla fine comanda lui, diciamo la verità, comanda lui. Beh, certo. Muti tutti. È il garante. Per cui può anche andare, comanda. Può anche violare le regole. Diciamo la verità. Attenzione, gli altri partiti, la gente viene cacciata. Io mi ricordo Fini da parte di Berlusconi con urla in un'assemblea. Beh, oddio, poi ci fu una votazione. Una proposta fatta ai nostri iscritti. Sì, ma anche allora, però mi risponda su questa cosa. Lei è onesto. La conosco come una persona onesta, trasparente e tutto. Senatore Giarrusso, Beppe Grillo può anche andare contro le regole che sono state decise, cioè passare degli organi o no? Allora, siccome il capo supremo ha fatto questa mossa nell'interesse del gruppo e del movimento sopra le regole, andando l'ha fatta in buona fede, da garante e da persona per bene, e dunque può andare anche ha contro fatto le regole bene, ha fatto male, si può, le opinioni ho sono capito, ma vi eravate legittime. Dati delle regole che lui ha violato, perché bisognava passare. Allora, attenzione, non è che ha violato beh, le insomma, regole. Sì, un le po' regole, sì. Le regole, purtroppo ce ne siamo accorti, avevano un varco, una differenza, ripeto, fra Camera e Senato. Vabbè. Però io le chiedo un'altra cosa, che è questa. Lei che è siciliano ed è conosciuto come uno insomma, che con la giustizia vuole che gli assassini paghino, che i criminali vadano in galera, è uno duro, no? Anche spesso anche da noi. Questa è nota la mia posizione. Questa è una cosa seria. Lei in cuor suo mi dica la verità, che cosa farebbe all'omicida, all'assassino del povero ragazzino, del bimbo siciliano? Insomma, sa la storia, no? Non sono cose che si possono riferire in trasmissione. No, ma si riferisce. Che farei? Certo, no, ma senza e ridere. Purtroppo non è una cosa da ridere, perché. E appunto, non bisogna ridere, io non sto ridendo. È un momento di gravissimo, sia drammatico, per la famiglia distrutta. Drammatico, drammatico. Per una comunità che si interroga. Assolutamente. Il mostro è fra di noi. Il mostro, l'orco, eccetera. Ma lei, l'assassino, una volta che lo prendono, cosa farebbe a questo assassino di uno che ha strangolato un bambino? Mi dica la verità, Giarrusso, io la conosco. Va rinchiuso in carcere e non va, e va buttata via la chiave. Deve essere messo nelle condizioni ovviamente di non nuocere, questo è ovvio. Cioè, lei per esempio la castrazione lei la metterebbe? No, ma perché queste beh, qualcuno la propone, la castrazione, se ci fosse ovviamente la violenza. Nel nostro paese purtroppo ci sono state barbarie, voi lo sapete, assassini, bambini che sono usciti dopo tanti anni di carcere con il rischio che ricadano nei delitti già compiuti. Qua bisogna dire una cosa, ci sono dei delitti che pongono chi li pone in essere fuori dal consesso civile. E dunque? E qui, e là vanno posti, in carcere, nella speranza che la sofferenza della carcerazione li porti all'espiazione. Ah, all'espiazione. cioè pena di morte, pena nella di... prossima vita, ovviamente. Ah, nella prossima vita. In questa, cioè, in questa giornata. Pena di morte? Ma no, ma e che ne so? Che scherziamo, solo per voi due. No, per noi due. Per no, noi due no, la no, garrotta. Voi la meritate, voi la meritate. Ma perché la meritiamo? In pubblica piazza, in diretta TV e radio. Grillo lascerà il movimento? No, non credo. Beh, mi sembra quando dice stanchino, eccetera, eccetera, l'impressione. Per il colmo e la cattiveria. Sapete a chi farei azionare la ghigliottina? A chi? Ma quale? Per chi? Per chi? A Emilio Fede. No! Immaginate, che questa è una grande cattiveria. Voi due ghigliottinati da Emilio Fede. No, Emilio Fede no. Può. Stupendo. No, Emilio Fede. Non no. Bisogna essere cattivi per pensare una cosa del genere. Però io dico una cosa, cittadino Giarrusso, il no, momento non per... Non chiamarlo cittadino, no, è una cosa mi manda i matti. Ma vuole essere chiamato cittadino, cosa vuoi che ci faccia? Bellissimo, onorevole, senatore. Cittadino, per piacere, state aggravando la posizione. Ma ormai lo sa che è tutto finito, sì, il movimento, tutto, il grillo, ormai è finito. Ma che dice? È tutto finito. Sì. È l'impressione che sia tutto finito, ormai c'è una cosa a strapiombo, c'è una discesa. Proprio giù o no? Non credo proprio. Benché la sento anche un po' giù. Sì, la sento un po' giù. Sono passati quei tempi in cui come si dice? Smaramaldeggiavate. Eccolo lì. O smargiassavate in giro. Il Parlamento, il palazzo, via, via. Ma lo sa che Pizzarotti. Sì, attento lei che ritorniamo presto. Ora. Ah, vede che lo ammette. Tornate perché ora non ci siete. Siamo per tornare in TV. Quindi attenti. Ah, ma lei c'è sempre questo andato. Questo è interessante. Tornate in TV. Ah no, questa è una tornate notizia, in TV. No, torniamo. E il nostro capogruppo già è andato la scorsa settimana, Ventana. Quindi tolto il veto. Questa è una notizia, la posizione del tolto il veto. È stata riconsiderata e quindi si tornerà in televisione in ovviamente trasmissioni di qualità con conduttori. E chi decide? Chi decide? Niente a che vedere con voi due, ovviamente. No, ma quella è la radio, poi questa è la radio, poi un'altra cosa. Questa è solo per questo. Cioè, ci salviamo solo per questo. Io ho peraltro una delega scritta insomma, del movimento, tu vai e castigali. Ma veramente c'è questa delega? E certo, poi un giorno ve la farò vedere. La dispensa papale. La dispensa del capo. Massacrali quei due cattivoni. Tornate in TV, tornate in TV allora. Ma chi decide se un conduttore è imparziale, se un conduttore. La rete. Chi decide? La rete. Esattamente. Ma no, ma anche questo. Giarrusso. Quanti improperi arrivano, la ovviamente. La rete la decide, la rete. Vabbè, senatore, la sento abbattuto comunque. Vabbè. Sto soltanto un po' stanco. Stanchino anche si lei. Dice ormai. La devo salutare. Arrivederci. Una buona serata, buon divertimento. Amici miei carissimi, siete in ascolto la pubblicità. Un siciliano forse non ruba. Forse lui, non lo so. La Zanzara. Ma guardate che lo fanno anche in Germania, eh? Allora, a proposito della foto pubblicata su Facebook dal presidente della regione toscana Enrico Rossi, che si è fatto fotografare insieme ai suoi vicini di casa che sono rom. Stupendo. Beh, stupendo. Io ho una teoria su questo. No, non c'è teoria, c'è un uso politico dei rom. Se tu giudichi provocazione, uso politico dei rom, quello che ha fatto Salvini al campo rom di Bologna qualche settimana fa, allora devi dire la stessa cosa di Rossi. È lo stesso uso politico. Telese, scusami, sono in diretta alla radio. Ti metto in diretta. Sono alla radio in diretta. Saluta Cruciani. Sì, vabbè, mia nonna è in carriera. Ha chiuso tutto. Allora, se tu pensi. pensi che quella roba di Salvini è stata una strumentalizzazione politica, allora devi dire la stessa cosa del presidente della regione Toscana Rossi. Sarà stata una risposta, quello no, che vuoi, risposta, ma certo, è uguale, è la stessa risposta cosa positiva. Salvini però ha utilizzato i Rom, tu credi, per prendere voti. Rossi utilizza i Rom. No, ma non ecco la differenza fondamentale. E che ne sai che non prende voti con i bonisti? Ti ho attratto nella trappola. Ma sei caduto nella tela del ragno. Ma quando mai? E il ragno Parenzo ora sì sei finito nella tela del ragno, amico mio. Caduto. Tant'è, stai per essere divorato dal ragno ora. Tant'è perché che la differenza dimmi. Differenza fondamentale è che i Rom non portano voti, anzi li tolgono. Rossi con coraggio ha pubblicato questa cosa. Allora nello stesso tempo Rossi ha detto: campagna della destra contro di me per foto con i vicini Rom, cosa ampiamente prevedibile. Come tu pensi che sia prevedibile l'assalto a Salvini davanti al campo Rom? È esattamente la stessa cosa. Cioè Rossi si è fatto fotografare con la famiglia Rom per prendere su di sé l'odio della destra e poi dire, c'è una campagna della destra contro di me per la foto che ho messo della famiglia Rom. Perché se tu hai accusato di Salvini di strumentalizzazione non si può accusare Rossi di strumentalizzazione? È esattamente perché la stessa cosa. Non c'è nessuna strumentalizzazione. Ma c'è lo stesso. Io non ho detto che c'è strumentalizzazione, non ho detto nemmeno di Salvini. Ho detto che si fa politica anche in questo modo. Ma se uno accusa Salvini di strumentalizzare i Rom, allora bisognerebbe accusare Rossi di strumentalizzare i Rom. No, perché non porta nessun voto. Ma chi te l'ha detto che la non porta voti? La strumentalizzazione ha detto passare come vittima della destra, come vittima della destra, come no, porta voti. Ma lo sai meglio di me, i Rom, neanche no, ti sbagli, l'elettorato di sinistra risultano simpatici. Sì, però se tu dici la destra mi ha attaccato perché mi sono fatto fare le foto, insomma, si parla di Rossi comunque, si parla di Rossi, amico mio. È la stessa cosa, la stessa strumentalizzazione. Perché dici di no? Perché ci sono di mezzo i Rom e perché c'è Rossi che è tuo amico? No, non è mio amico perché l'ho visto una volta sola. Ma ecco, e quindi non è assolutamente amico. Comunque, secondo Vauro, senti qua, secondo Vauro la Lega è un partito fascista. Vauro. La Lega è diventato un partito lepenista, neofascista, come ce ne sono molti in Europa. Se questa è l'alternativa a Renzi, mi tengo Renzi. Guarda, te lo dice uno che non si sa. Fascista, starei calmo. Frequenti tu i fascisti, non io. Parlava con un esponente del Partito Democratico, signor Vauro. La Le Pen in estasi per Salvini, lo sappiamo, no? Giusto? Parenzo, dove cazzo sei? Scusa. Sono qui. Ad aspettare che mi fai sentire la voce della signora Le Pen che loda il Matteo leghista. In estasi per Salvini, e sentiamolo, dai. Salvini ha un'energia debordante e anche io a volte vado in estasi davanti alla sua forza di convinzione e alla bravura nel lavoro. Sa forza di convinzione. Vabbè, esagerata, dai, in estasi per Salvini, in estasi. Uno va in estasi per altre cose, diciamo la verità. Sì, tu perché cosa vai in estasi? Io? Che cos'è che ti fa andare in estasi? Cosa mi fa andare in estasi? In estasi, una cosa proprio, non l'ecstasy, non l'ecstasy. Che mi cosa eccita ti fa andare, proprio da morire, una roba che mi eccita nella vita, da morire. Cos'è che ti fa andare in estasi? Ma non so, ad esempio la domenica quando leggo l'editoriale di Scalfari, ad esempio. No, dai, non scherzare, dimmi che cosa ti fa andare in estasi. Che so, uno sguardo di tuo figlio. Vabbè, certo, una... ma cosa sì, che ti fa andare in estasi? Le cose familiari, dell'amore, quelle cose lì mi fanno... Sì, sicuramente. Basta, solo questo. E che cosa? Una cosa che ti fa andare in estasi, una cosa. Possibile che uno non è in grado di dirlo? Di la verità, diciamo la verità, è radio trasparenza. No, ma lo so dire sicuramente. Che cos'è? I disegni che mia figlia mi ha fatto recentemente. I disegni bellissimi, ti voglio bene papà. Quello ad esempio mi piace moltissimo, quando rappresenta il suo fratellino. Queste cose qui mi piacciono. Queste sono cose che ti fanno andare in estasi. Beh sì, mi danno soddisfazione, mi fanno... Vuoi sapere cosa mi fa andare in estasi a me? Non so se io e Squinzi vogliamo saperlo. Non so. Dopo i titoli del TG3. Questo non lo so. Ladies and gentlemen. E adesso i titoli del TG3. E ascoltate cosa deve dire. L'ho ristrangolato e poi gettato nel canale. La procura, non ci sono conferme di abusi sessuali. Il piccolo sarebbe salito sull'auto di una persona che conosceva. 32enne di Salerno uccide a coltellate la ex moglie e lo annuncia su Facebook. Sei morta. Sul social network compaiono centinaia di mi piace, poi la pagina viene rimossa. Renzi in direzione chiede un voto per accelerare sulle riforme, nessun rinvio sull'Italia, come il PD non sottovaluti la nuova destra. 5 Stelle nel caos, slitta l'assemblea dei parlamentari, il direttorio esclude nuove espulsioni, Grillo, il nostro sogno non si fermerà. Sono negativi i primi test sui vaccini anti-influenza, nessuna contaminazione nei due lotti sequestrati, il ministro Lorenzin un sospiro di sollievo. Giornata contro l'AIDS, il virus continua a colpire, 4.000 nuovi casi l'anno in Italia, ma del pericolo contagio si parla sempre meno. I nostri inviati nelle linee del fronte del Kurdistan iracheno, tra le milizie cristiane che combattono fianco a fianco dei Peshmerga contro lo Stato islamico. Ti prego. Ti prego. Ragazzi, ma la frase di Giuliano Ferrara sui transessuali ce l'abbiamo ancora, riprendiamola, eh? Ah, ce l'abbiamo? Beh, siamo al top assoluto, eh? Allora, l'amore di Giuliano Ferrara per i trans. Trussuri è una persona adorabile, io la ebbi a 8 e mezzo e tra l'altro la chiamai Vladimir e lei mi disse, o lui mi disse grazie, sei l'unico che pronuncia bene il mio nome, perché da piccolo sarò morto. Però a te i trans non piacciono tanto, si tra... Vladimir, come non mi piace, mi piacciono da morire. I trans no, anche da morire, mi eccitano anche. Ma no, non è vero, ma vai Giuliano, ma non è vero, ma non è vero. Ma che stai scherzando? Ma dico, ma la sola idea di un transessuale è eccitante, basta la, è come una didascalia, trans sessuale, è una cosa meravigliosa, l'ermafrodito, è una cosa stupenda. Però qui Giuliano adesso non è la cosa che mi manda in estasi, Parenzo, te lo dico subito, perché tu magari hai fatto un collegamento, non è la no. La cosa che mi manda più in estasi sono due donne che fanno sesso, dai, davanti a me, due donne che fanno sesso. Vabbè, banalissimo. Vabbè, sarà banale, però proprio che due donne. È proprio l'arci italiano, ma che l'arci italiano? Ma perché? È proprio l'archetipo più basso dell'uomo. No, sì, due donne che fanno sesso e poi sì, ma roba l'amore promiscuo. Ma non ce ne di promiscuo. I corpi che si accavallano, è una roba talmente banale, ma... vabbè, comunque sarà banale, però sì, poi lo ci sono tante chiunque, cose. Chiunque lo dice. Beh, infatti, tiri in giro, dice cos'è. Ma infatti, la io sono uomo del popolo, cioè non sono un intellettuale snob come te. Ma che intellettuale. Allora, questa cosa di Giuliano Ferrara però è veramente da considerare. Cioè, cosa Giuliano Ferrara considera è molto molto eccita anche questo, però d'arci italiano, un po' d'arci italiano, no? Giuliano Ferrara che dice di avere un'attrazione per l'ermafrodita. Dirlo, no, è già anticonformista, perché è una cosa che in genere non si dice così apertamente, no, invece questa. No, quelle sono, come dire, perversioni che in genere si tengono in privato. Non è normale, ma non si sente sempre dire una cosa così, mentre un maschio, un uomo che dice piacerebbe vedere due donne è già più comune, no? Ah, no, credo. Molti non lo confessano, ma in realtà hanno un'attrazione pazzesca nei confronti dell'uomo della donna con l'uccello, dai. Fermo lì. Squinzi. Qua. Dov'è Squinzi? No, non è con la radio collegata, no. Parenzo, che dici? No, in questo momento è in un consiglio di amministrazione, stai tranquillo. Fino alle sale in macchina 19:45, 20 in genere. Che tempi. La Zanzara. Complimenti per il programma. Vi seguo sempre dalla mattina alla sera. Allora, vorrei riprendere le parole di questo ascoltatore, un ascoltatore di venerdì, Franco da Alessandria. Ovviamente è un tipo da Zanzara, mi sembra chiaro, no? Il mitico Franco da Alessandria, caro Parenzo. Tipi da Zanzara. Franco, Alessandria. Non Franco. È possibile andare avanti così. Franco, non è possibile andare avanti così. Dimmi, Franco. Pronto? Dimmi. Era per rispondere a quel signore che doveva guardare gli occhi belli. Sì, quello che non gli si rizzava con la prostituta, sì. Io ho degli amici che sono all'esatto contrario. Se non pagano, non sono prestazionali. E Franco, ma lei va a prostitute? Abbastanza. ma questo qua è buono, però, però non si ecco un altro sfruttatore, ma abbastanza, peraltro. Che vuol dire? Ecco uno sfruttatore, abbastanza nel senso che il mio amico va solo più a prostitute. Beh, lei è lui poi il suo amico in realtà, ah, come si dice, no, sempre non così, è l'unico, perché quando porti a cena una che comincia che è vegana, che c'ha il cane, che devi vedere i film di Will Bender, che devi leggere La Touche o PQC, e quello lì si smonta e non ha torto, non però funziona più. Questo è... tu paghi, certo, certo, no, certo. Io ho, dice, certo, un criterio base: se la tipa al cane, out, perché mi sono, ho capito, siamo che oltre alla concezione tolemaica e copernicana c'è la concezione di quella che c'è Bobby al centro dell'universo e tutti i pianeti e le galassie girano attorno a Bobby. Sì, ma questo anche qui non ha torto, però, cioè se una ha il cane dovrebbe essere cassata. Capisco. Cioè che poi dopo il cane, no, che no, c'è? Lei, non si si... tenga, lei si tenga il cane, io vado a zoccole, è bello che è finito il discorso. Tipi da Zanzara. Franco da Alessandria. Devo dire che la donna col cane che legge libri impegnati, beh, amico mio, non ha torto il signor Franco da Alessandria. Franco da Alessandria. Giorgio da Firenze, andiamo. Giorgio da Firenze, vai. Pronto? Vai, Giorgio, dimmi. Sì, no, dicevo, ai sinistronzi non c'è mai limite, veramente. Cioè? Ora, c'è stata anche questa bellissima fotografia del nostro presidente signor Rossi. Rossi. Sì, signor Rossi. Signor Rossi, il quale sta con dei soggetti che tutti i giorni sono in centro a Firenze a borseggiare, a rompere i coglioni, a mettersi in terra per chiedere l'elemosina, rompano veramente le palle in continuazione. E lui cosa fa? Lui si fa fotografare accanto a questi qua, i quali, a parer mio, dovrebbero essere leggermente... Allora, se c'è un soggetto che continua e persevera nel fare le cose, dovrebbe essere castrato chimicamente. Ma che c'entra, scusi, questi qua non è che sono cose, non è che sono, cioè, non è che sono stupratori questi qua, Ma questi sono dei cagatori negli appartamenti, sfruttamento di ogni genere, dei bambini. Io mi domando e dico, sì, ma gli assistenti sociali che vanno a rompere le palle alle famiglie normali quando c'è un problema in casa per i bambini, e quando si vedono invece questi bambini di 5, 6 anni, 10 anni a giro per la strada a fare l'elemosina, questi dove sono gli assistenti sociali? Rossi perché non si lamenta di questo? Lo sa che vanno nelle scuole i bambini di Rom e portano un monte di microbi, zecche, guarda che incredibile, ah, lui, guardalo, incredibile, lei è incredibile, Giorgio, il culo che ha chiamato il Giorgio, il genio, quando? Giorgio, quando? Il cretino ha chiamato, quando glielo canteranno nel culo, perché in paese il cattivo soggetto che Giorgio parla bene mio, perché non gli è mai... Ti prego. In mezzo alle cappette, sì, evidentemente forse si arrabbierà, come andrà dai carabinieri, che sono quelli che non gli piace mai ti parlare. Prego. Andrà a... No, stai dicendo, Giorgio, che è la prima volta che ti succede, prego, qualcosa sui Rom, prego, sarai incazzato, prego, come una belva. Anche guarda tu, che è successo anche a me, perché tempo fa mi hanno anche a me pizzicato, non so se Rom o qualche altro ladruncolo. Beh, ma in metropolitana m'hanno, che prendo sempre peraltro, mi hanno pizzicato anche a me. Ma il genio di Giorgio, ti prego, Giorgio, ascoltami. Allora, il sì, genio sì, di questo Giorgio, allora, è lo stesso, è il prototipo, Giorgio, proprio dell'italiano idiota, perché da una parte dice via i Rom, bisogna integrarli, non devono star per strada, dall'altra quando vanno a scuola ma portano le malattie ai nostri bambini, no, ai io, nostri bambini, no, volevo precisare, Giorgio questo, mio, devi fare d'accordo io col cervello, con un bulldozer sui campi Rom, con un bulldozer, eccolo, e ci metterei anche quella gente che gli porta, eccolo, da mangiare, là, ci lucra come la Caritas e Pretacci, che sono lì a dargli da mangiare prendendo soldi dai comuni di Firenze. Questa è la socialità, il sociale. Quindi il spiegami, sociale, Giorgio, o genio fiorentino, spiegami te, Machiavelli di miei coglioni, spiegami te. Allora, da una parte non li vuoi vedere per strada, non li vuoi vedere a scuola, dove li vuoi vedere? Su una ruspa li vuoi vedere? No, io li vorrei vedere accompagnati con una ruspa al di là del confine. Ma quale fermi confine? Tutti, cerchiamo di beccare Cassano, quello del nuovo centrodestra che ha detto delle mani curate a Vendola. Sentiamo, se vediamo se lo troviamo. Aspetta, fate. Pronto? Pronto? Senatore? Sì. Buonasera, sono Cruciani, come va? Parenzo. Ah, salve. Bene, bene. Senta, vogliamo chiedere scusa a Vendola per quella cosa oppure no? Direi. Per cosa? No, per quello che lei ha detto sulle mani, lui si fa la manicure, oppure è lui che deve... Cosa ha detto? No. No, se vuole le leggo la frase, quindi lui sta utilizzando questa cosa per farsi un po' di campagna elettorale. Se vuole le leggo la frase. Mi legga la frase, mi legga la frase. Ecco. Sì. Allora, questo signore qualche giorno fa ha attaccato Michele Emiliano per un accordo fatto con l'UDC. Esatto, sì. E l'ho attaccato in maniera violenta, offendendo anche chiaramente l'UDC. D'accordo. Ad un certo punto di questa conferenza stampa, lui non fa il nome dell'UDC, non fa il nome di Emiliano, non fa il nome del nuovo centrodestra, fa il nome di Massimo Cassano. Sì. Paragonandomi a un protagonista di film di horror. Stephen King, allora, sì. Allora, ma voleva dire, semplicemente che l'alleanza con il nuovo centrodestra voleva dire... Ma io non ho chiesto l'alleanza a lui. Ma il punto non è questo, però, amico mio. Io non c'entravo nulla nella sua conferenza. Senatore? Mi perdoni, Ti prego. Allora, le leggo la frase che io ho scritto... Diciamo la lettera che io ho scritto a questo signore. Sì. No? Ti prego. Il favoliere delle Puglie si è trasformato in uno scrittore d'horror di ormai scarso successo. Non l'abbiamo letta. Vendola mi verrebbe da chiedere, ma da me lei che cosa vuole? Che cazzo vuole? Ci sarebbe da ridere, invece, essere perennemente attaccato dall'uomo zero della politica italiana, o meglio pugliese, o forse solo terlizzese. Comincia ad essere difficilmente comprensibile. E vabbè, da quello l'ho letta, senatore. Allora, questa è la frase. Signor Vendola, la vera differenza tra me e lei sta nelle mani. Ecco. Le sue sono fresche di continue ripassate delle manicure. Le mie, i calli, che distinguono di chi è nato nelle periferie, diroccate nelle nostre città del sud. Certo. Mondo a lei e ai suoi sconosciuto. Sì. Signor Vendola, lei di me cosa sa? Rispondo io nulla. Non sa cosa vuol dire venire al mondo da una famiglia umile, in un quartiere umile, in una città umile. Certo. Non sa cosa vuol dire dover sgobbare fin da ragazzino per contribuire al bilancio umile della propria famiglia. Vabbè. Non sa cosa significa restare orfano poco più che bambino. Senatore, ma che c'entra questo? E sentirsi solo e perso in questa giungla. Ma... Lei, Vendola, in realtà di me non sa nulla. Sì. Quindi sono omofobo io? No, ma senatore, scusi però. No, mi dica, sono omofobo. No, io non lo so se lei è omofobo o no. Mi ha chiamato omofobo, bigotto di professione marito. Di professione marito, sì. Omofobo e bigotto di professione marito, sì, è vero. Ma quello perché? Dopo però, quello dopo. Quello dopo. Dopo, sì, sì. Però scusi, senatore, il problema non è quello che ha detto Vendola prima cercando di attaccare Emiliano sull'alleanza con il nuovo centrodestra. Quello è una polemica non politica. Non c'entra il nuovo centrodestra, non era un'alleanza. Vabbè, ma lei fa politica, ma lasciamo perdere. Il punto è la frase come che... Fa politica? No, le unghie. No, lei fa politica, sa benissimo che nella polemica politica ci può stare anche questo. Il problema non unghie. C'ero io nella loro politica. Va nella bene, loro polemica, ma non è importante. Emiliano, io non c'ero. Ma, io non ma perché lei io ha parlato sul tavolo del centrodestra? Ma perché ha parlato io? Perché ha parlato di unghie? Perché ha parlato di unghie la Catele? Unghie dove? Dove mi dice dove? Ah, benissimo. Dove sono le unghie? Mi dica. No, le mani, scusi, no, le mani. Ah, bravissimo. Beh, uguale, le mani è uguale, le dai, mani su. Vuol dire di chi ha lavorato da bambino. E di chi come lui non ha mai lavorato, mai. Però scusi, senatore, scusi. Senatore. A me ha ricordato, se lui crede di mettermi contro i gay, ti prego, riuscirà mai. Perché io ho tanti elettori gay, ho tanti amici gay con cui esco la quello sera. Si dice sempre. E quindi lui non ci riuscirà mai a farmi parlare male dei gay. Mai. Però scusi, senatore Cassano, quindi, quando, perché lei, parlando di Vendola... E dice quella frase sulla manicure e sulle mani, non è a caso, è perché Vendola è gay, è perché Vendola è gay. Glielo ripeto, io ho parlato, le mie mani hanno i calli, le sue non hanno i calli, sono continue, ripassate, sono fresche come tanti uomini a farsi il manicure. Tutti, ma non è che tutti si fanno il manicure, non c'è nulla di strano. Quindi se lui confonde il lavoro, quello che ho fatto io da ragazzino, rispetto a lui che non ha mai lavorato, che vive di politica, allora io faccio questa distinzione: i gay non c'entrano nulla. Però scusi, e quindi nasce... non posso essere omofobo perché io ho amici gay. Vabbè, quello che io c'entra. Esco la sera con i gay pure. Ed sono miei elettori, come glielo devo dire, che io non parlerò mai contro i gay. È inutile che lui cerca di mascherarsi dietro a cosa. Senatore Cassano, fa. Però funzionava lì. Va bene, mi lascia. Si è candidato la prima volta, ora non funziona più. Scusi, senatore Cassano, mi lasci parlare. Capisco la sua amarezza, la sua arrabbiatura, e questo non c'è dubbio, perché qualcuno oggi addirittura chiede le sue dimissioni. Lei non si dimette, naturalmente, da sottosegretario. Ma se lui parla male di Renzi ogni giorno, io mi devo dimettere. No, ma che lui c'entra? Ogni giorno parla malissimo di Renzi. E di che cosa mi devo dimettere io? Vabbè, alcuni anche nel centrosinistra, nel Partito Democratico, chiedono le sue dimissioni, leggo. Ma alcuni... sono gli amici suoi, sono gli amici del partito, della sinistra sua, di Civati, di quelli che fanno parte del suo partito, della sua federazione. Ma che vuol dire? Che c'è? Perché mi dovrei dimettere? Però scusi. Perché ho detto che lui non ha mai lavorato in no, vita non sua, ha detto questo. Se lei avesse detto questo, sa benissimo che le polemiche non e ci sarebbero allora state. Allora glielo ripeto, vuole che le rileggo la frase? No, quindi non si vuole convincere. Guardi che non la sto accusando. Io ho detto che io ho i calli perché ho lavorato e lui non ce li ha. No, non ha detto non ce li ha. Ha detto che si fa le mani dalla manicure. Siccome è gay... Perché? Che c'è di strano? Ma ho capito. Scusi un attimo, scusi senatore. Gli uomini, lei lo fa? No, io non lo faccio. Lei non l'ha mai fatto? Mai. Non credo. Mai. Non sono... chiede il studio. Siccome lo fanno tanti, almeno della ma io città, neanche non l'ho mai fatto, senatore, su. Che cosa c'è di strano? Lei l'ha fatto? Lei l'ha fatto? Il senso era di chi ha lavorato nella vita e chi non d'accordo. Ha fatto mai nulla. Questo l'ho capito. Lei si è mai fatto la manicure? Lei ha fatto la manicure? Lei ha fatto la manicure? Lei si è fatto la manicure qualche volta? Dai, ma il riferimento è a Vengo. Glielo giuro sui genitori che non ho più. Scusi, ho perso mia madre e mio padre e glielo giuro che io l'ho fatto. Io non ho più i genitori da tantissimi anni. Vabbè, questo però, glielo giuro però. Su di loro. Io l'ho sempre fatto. Che c'è di strano? Senatore Cassano, io voglio capire una cosa. Lei pensa che Vendola sfrutti i gay per la all'inizio lo ha fatto, sì. All'inizio si è mascherato dietro questa cosa qua. E adesso? Siccome oggi non lo vota più nessuno è rimasto solo, quindi lo hanno abbandonato tutti, compreso i dirigenti del suo partito. Cerca di farsi campagna elettorale attaccando me. Però, ma che vuole da me? Però lei, ma perché mi mette in mezzo? Lei non io si dimette. Con lui non ci sarò mai. Va bene, d'accordo, in ho capito. Coalizione, con lui non starò mai. Senatore, ti prego, senatore. Sottosegretario, sottosegretario, ti prego, solo chiederti una cosa, ti prego. No, però ti prego, calmiamoci un secondo, solo per chiederti una cosa. No, io mi calmo, io sono ti prego, calmissimo. Ti prego. Ma lui non può dire che io sono contro i gay. No, va bene, però ti prego. Ti prego, ti prego. Sono omofobo io. Ma che c'entra che esce con i gay? C'entra! Ti prego, calmiamoci tutti un attimo, perché sennò ci innervosiamo. Calmiamoci, io sono calmo, calmiamoci. Ho detto che le mie mani hanno i calli. Ma è vero o no? Hanno lavorato. Ma è vero o no? Le sue mani no, perché lui le cura ancora oggi col manicure di... con le manicure. Ma che ne sa? Ma che ne sa lei? Ma che ne sa che vado a manicure? Calmiamoci, ti prego. Ma che sei omofobo, visto che lo faccio pure io. Cosa c'è? Ma che ne sa che lei vado a manicure? Scusi. Che ne sa che Vendola vado a manicure, senatore? Ma era il senso che lui non ha mai lavorato in vita sua. Che c'entrano i gay? Comunque, che cosa c'entrano? Ma lei, secondo in questa lei... lettera, sì. Che c'entrano i gay? Ma io parlo di ospedali. Vabbè, parlo di capito. Lavoro, sì. Parlo di leadership, ho parlato di tutto. Ha fatto, che diciamo che lei ha fatto una senatore, ha fatto una cassanata. Si ricorda Cassano quando disse che i froci era problema no, loro? Guardi, non, guardi, è ha fatto una cassanata. Io comprendo anche il vostro ruolo. Assolutamente no, io ho detto la verità. Lui non ha mai lavorato. Vabbè, qualcosa avrà fatto nella vita. Ruolo, nella vita qualcosa e avrà deve fatto. Deve cominciare a lavorare come fanno tutti gli italiani. Vabbè, ma qualcosa avrà fatto nella sua vita, Vendola. Come abbiamo fatto tutti noi. Vabbè, qualcosa avrà fatto nella vita, Vendola, no? No. Non no. ha fatto un cazzo, niente, zero. No, mai. Mai nulla. Mai. Vabbè, chieda a Vendola che cosa ha fatto nella sua vita. Ma ha fatto anche il giornalista, peraltro. Cosa ho fatto io nella mia? Che ha fatto? Vuole che sapere fatto? Cosa ho fatto? Che ha fatto? Sì, che io ho fatto Massimo. Ho scaricato i tufi, ho tagliato uva nelle campagne. Sì. Ho lavorato in banca per 15 anni, ho fatto il manager delle aziende, faccio il commercialista, dunque, che faccio cazzo? Il revisore contabile, ho fatto l'imprenditore. E come fa a fare deputato? Faccio politica dall'età di 18 anni. Io la prima volta sono stato eletto a 18 anni in circoscrizione a Bari con la Democrazia Cristiana. Io ho una storia. Ma se lui vuole io non che io parli male dei gay, non ci riuscirà mai. Va bene, non d'accordo. Lo farò mai perché sono amici miei, non suoi. Sono amici miei, sono miei elettori. Vabbè. Se va su Facebook ho tanti amici dichiarati gay che stanno parlando male di lui. Lei non si dimette, lei non posti si dimette. Le sue mani con le unghie, le posti su Facebook per far vedere che veramente le anche lei va dalla manicure. No, dico, posti le sue mani su Facebook così capiamo che anche lei va dalla manicure. Mette le sue mani. Ma mi creda, c'è poco scherzare, perché lui ha chiamato il sottoscritto, ha chiamato omofobo il sottoscritto. È bigotto anche, bigotto. È bigotto e poi, padre, diciamo, di professione marito. Sì, di professione come marito. Come se essere padre o essere a essere un capofamiglia, essere marito è un fatto, è diventato un fatto negativo. Ma lo so. Si rende conto? Questa è un ma po' esagerata. Ma da dove siamo arrivati? Ma per caso vi siete sentiti? Vi siete sentiti? No, ancora non si sono sentiti. Vi siete sentiti per telefono, io, per caso? Ma io non c'ho, io ci ho parlato nella mia vita una volta. E come mai? Io non ci ho mai parlato con lui. Beh, magari sarà offeso, magari. Lui era il presidente della regione, io sono stato per 10 anni all'opposizione. Comunque, magari è offeso, l'ho sempre combattuto. Magari si è offeso. Si è offeso. Ma chi se ne frega? Io sto all'opposizione, faccio gli interessi dei cittadini, non gli interessi suoi che non ha mai lavorato. Che esperienza ha portato in regione? Vabbè. Ha fatto fallire una regione intera. Vabbè. Non ha niente da chiedere scusa. Non ha niente... lui va negli ospedali per un mal di gola e gli fanno subito l'ecografia. La gente in Puglia aspetta 2 anni per fare l'ecografia. Adesso questa è un'accusa grave. Questa è un'accusa grave. Ma si rende conto? Questa è un'accusa grave. Ha un mal di gola a Foggia e lo visitano e gli fanno l'ecografia. La gente fa i chilometri di fila al CUP per farsi visitare e aspetta 2 anni. Ma che uomo è questo? Beh, ma che uomo è? Non ha niente da non ha niente da chiedere scusa a lei allora, nessuna scusa a Bendola. Ma chi? È lui che deve chiedere scusa alla mia famiglia. Vabbè, perché è professione marito. Deve chiedere scusa ai miei figli. Beh, di professione. Mi ha detto che di professione faccio il marito. Sì, questo chieda pure scusa ai miei figli e alla mia famiglia prima di tutto. Grazie senatore. Ma si rende conto? Grazie senatore. Grazie. Arrivederci. Grazie. Grazie. Mamma mia, com'era incazzato, mamma mia. Come lotta? Come lotta il senatore Cassano, sottosegretario al lavoro, ragazzi. È veramente incazzato come una beva. E alla fine quasi ha ragione. Ora, il riferimento a Vendola e alle mani curate dal manicure è sospetto, quel riferimento, perché un riferimento sospetto è evidente, che ognuno di noi è legittimato a pensare che ci si riferisca a Vendola omosessuale e dunque a questa sorta di immagine dell'omosessuale effeminato che va a farsi le mani dal manicure per curarsene meglio, non c'è dubbio. Però effettivamente poi alla fine quando Vendola gli dice omofobo, di professione padre di famiglia, marito, che ha detto bigotto, amico mio, mi sembra un po' esagerato, no? O no? Ti prego. Che cazzo c'entra, ti prego? Ti prego. Ti prego. Giuseppe dalla provincia di Chieti. Il tono era il secondo, però, perché sono due ti prego però, con ti due tonalità normale? Diverse. A me lo sai che, allora, quello che ha ammazzato l'ex moglie e poi ha scritto su Facebook sei morta troia, tra l'altro, ma quelli che hanno messo like. E quella, è quello il punto. Cioè, quello è matto, è d'accordo, ma quelli che mettono like. Questo Cosimo Pagnani, come diavolo si chiama, questo, ma quello no, è matto, adesso... ha ammazzato la moglie, vabbè, certo, è matto, è pazzo, e via. Ma quelli che hanno sono andati là, forse non sapevano però, forse non sapevano, loro scrive. Forse non sapevano che lui aveva ammazzato. Pensavano fosse una battuta, pensavano che fosse un matto, ma una battuta contro l'ex moglie che ha avuto, che si è messa, no, con un altro, cose di questo tipo. Ma è completamente, cioè, questi qua sono da prendere uno per uno, quelli che hanno messo il like, quelli che hanno messo like su Facebook, no, a favore di quel maniaco pazzo che ha ucciso la moglie. Questi sarebbero da andare a prendere uno per uno e dire: oh, amico mio, non usare Facebook per 4 anni come minimo. Amici miei carissimi, siete in ascolto, la pubblicità. La zanzara. Almeno tutte le donne dovrebbero provare che cos'è una di figlio, che cos'è una gangbang. Parenzo, tu da quant'è che non scopi? Beh, diciamo che le lezioni di sesso di Valentina Nappi sono sempre utili, sono sempre attuali, utili e attuali. Aggiungo questa notizia, che il Quirinale ha, in una nota ha detto che le dimissioni di Napolitano non ci saranno prima della fine del semestre europeo, che però finisce alla fine del mese praticamente. Dunque, quindi diciamo, ha confermato la notizia dell'abbandono a Natale, a Capodanno. Indirettamente la notizia che a gennaio molto probabilmente Napolitano si dimetterà, però ovviamente non c'è nulla di ufficiale. indirettamente lo si può desumere, no? Direttamente. No. Anzi, è il Quirinale stesso che ha dato una scadenza fino alla fine della presidenza. Certo. Il Quirinale ha dato una scadenza. La notizia di oggi è questa, secondo me, è proprio da girare. No, la notizia di oggi è che al 31 dicembre non ci sono dimissioni. Però, dicendo questa cosa qua, si dice che da quel momento in poi è possibile. Se non si vuole dimettere, che lo precisi a fare. Ti prego. Guardate che lo fanno anche in Germania. In Germania non si dimettono per questo. Non è che si dimette il presidente prima, dopo, solo per scandali si dimettono. Non è che si dimettono così perché uno è stanco. Anche sta cosa però è particolare. Uno è stato rieletto, è vero che c'era. Lo aveva già detto il presidente Napolitano, accettò l'incarico. Quindi rendiamogli omaggio. Ma omaggio gli rendi tu, io non rendo omaggio a nessuno, me ne fotto. Beh, è stato un bravissimo. Ma non me ne frega niente di rendere omaggio a Napolitano. Tu sei come al solito istituzionale. E rendi omaggio a cosa? Rendi omaggio a Napolitano. Io non rendo omaggio a nessuno. Scrive se la malavenda, amico mio. Altre assoluzioni per la Zanzara? Altre assoluzioni? Valentino D'Alecco, dai, Valentino D'Alecco. Lo leggiamo? No, Valentino D'Alecco, dai. Beh, tanto. Sentiamo la bella. Mi sentite emozionato perché sono in estasi e sto leggendo un editoriale di Scalfari. Bravo. Non riesco proprio a riprendermi da quest'estasi. Ma tu perché vai in estasi, Valentino? Come Marine Le Pen va in estasi per Salvini, io vado in estasi per il sesso. Parenzo. Quello è scontato, allora dovrei dirti anch'io la stessa cosa. Ma è giusto dire così. Da parte, tra l'altro, non posso dire altro. Quindi dovrei dirti cosa mi manda in estasi. Perché sei traditore, ma non lo vuoi dire. No, che poi mi uccide a colpi di pugnale, non scherziamo. Allora, mi dicono, aspetta un attimo, una parentesi, che Emanuele Fiano, amico, alla direzione del Partito Democratico in corso, ha citato la Zanzara e un ascoltatore che voleva bruciare i Rom. Io sono sicuro che Emanuele Fiano, nel corso della direzione oggi del Partito Democratico, ha citato la Zanzara non in senso negativo, sono sicuro di questo, perché a meno che non sia impazzito e sia diventato improvvisamente imbecille, lo ha citato semplicemente come clima. Certo. Certamente non prendendoselo con questa trasmissione che non c'entra una mazza. Però un'altra notizia da darti, che un signore, fra poco scoprirò il nome, durante uno di quei corsi, di questi ridicoli corsi di aggiornamento per i giornalisti, uno che teneva un corso di Famiglia Cristiana, ha detto che dovremmo essere deferiti a non so quale tribunale del cazzo per quell'intervento di Giorgio sui Rom che devono essere trasformati in mangime per porci, capito? Un signore, ancora Famiglia Cristiana, non mi fate incazzare perché vi scateno l'inferno, vi scateno l'inferno, questi di Famiglia Cristiana mi fanno incazzare, no. Un altro intervento che sento ufficiale di uno di Famiglia Cristiana che mi rompe i coglioni su questa cosa qui all'ordine dei giornalisti, scateno l'ira di Dio, chiaro? Chiaro? Valentino, dai. Anche prendo in mano il telefono e chiamo subito Radio Maria. No, non se ne può più. Che dobbiamo essere deferiti e non me ne frega niente. Poi è tribunale dell'Inquisizione perché uno è intervenuto dicendo delle cose sui Rom che noi non condividiamo. Mandassero a fare in culo. Uno che interviene ufficialmente, che devono essere citati ai tribunali. Vi scateno l'ira di Dio. Valentino D'Alecco, l'ira di Dio vi scateno. Valentino. Non metti mano alle pistole, vero? No, quello no. Quello sempre. Vi scateno l'ira di Dio, sempre nella decenza. Insomma, sempre nella polemica e tutto. Però scateno l'ira di Dio. Che continua a rompermi i coglioni questi qua. Valentino D'Alecco, adesso basta. Quando è troppo. Sai chi dovresti scatenare? Il signor Donato. A proposito, scateno tutti. Non vi faccio più lavorare per un mese. Blocco tutto, centralini, entrate, blocco tutta Famiglia Cristiana se continua a rompere i coglioni. Basta. No, carità, porgi l'altra guancia. Ma che porgi tu l'altra? Io non porgo l'altra guancia manco per niente, Valentino. Ma questo ho saputo, mi hanno detto, c'è un signore di Famiglia Cristiana che tiene un corso di aggiornamento, che ha parlato di voi e vi vuole deferire all'ordine dei giornalisti per processarvi per le frasi sui Rom. Adesso mi iscrivo a questo corso. Ma una cosa pazzesca, voglio scrivere al corso di questo signore. Se questi continuano, scateno l'ira di li faccio li fa, come diceva cosa? Come si chiama? Era, ma no, Antinori, no, era quello. Ma che roba è? Valentino, ogni tanto mi immedesimo negli ospiti. Vado in tribunale, ma ti mando. Valentino, Lecco, dai. Cioè. Ti stavo dicendo, no, una cosa, volevo dirti una cosa sul Movimento 5 Stelle, però se mi chiedi che cos'è che mi manda in estasi il cambio di marcia del signor Donato, quando ti telefona che parte basso e poi cambia di marcia e diventa un pazzo scatenato, quella cosa lì a me mi fa ridere per 20 minuti, quindi la considero Donato estasi. Da Varese, signor Donato, non mi ricordavo Donato da dove, ma era quello lì, cioè veramente un... Ah, l'estasi, tu hai l'estasi per Donato da Varese, quando beh questo qua mi sembra marcia, buono. Quando gli parte la marcia, sì, diventa quando gli parte la brocca, cioè, adesso lo hanno, la frizione, lo hanno messo in un reparto speciale, quindi per qualche settimana non lo possiamo sentire perché è sotto cura. È il numero uno quello lì, veramente incredibile. Un'altra cosa, volevo dirti. Allora, qui si dà già per scontato, bene, il Movimento 5 Stelle è morto, siamo tutti morti, è finito, siamo finiti, giusto? Io sono un attivista del Movimento 5 Stelle, che ho già chiamato un po' di volte, e mi piace sentire sta cosa perché l'ho sentita almeno 500 volte, dal 2010 ad oggi siamo morti una quarantina di volte, per cui la prendo come una delle ennesime morti da cui resusciteremo il più presto possibile, e poi i fatti parleranno per noi, però parlare adesso di morte del Movimento perché si è formato un, voi lo chiamate direttorio, però alla fine c'è un gruppo di persone che devono dare una direttrice, cioè mi sembra un po' eccessivo, no? Bah, guarda, caro Valentino, i risultati sono sotto gli occhi di tutti, noi ci scherziamo pure, noi non ce ne frega niente se ha successo o è insuccesso il Movimento 5 Stelle, se uno ha consenso va benissimo, se non ha consenso, la caduta di consensi, la mancanza di linea politica, il fatto che non sanno che fare, il fatto che si ingarbugliano, tu sai, le regole che, di cui ci parlava prima Giarrusso in maniera anche imbarazzata secondo me, cioè il Senato da una parte e la Camera dall'altra, e prima sì Beppe ha deciso questa cosa, e sì le regole erano queste però valevano solo per questo, cioè alla scuola di mia figlia, le regole all'interno di una classe sono più chiare, cioè all'interno di una, ti faccio un esempio, sì, ma... certo, cioè, certo, non certo. Si capisce una mazza, prima decidono questi, poi gli altri, poi il web, poi ogni tanto Beppe Grillo può intervenire come garante e decidere un'altra cosa, ti assicuro che se uno lo vuole spiegare alla gente normale, la gente non lo capisce, sì, è difficile, sì. Allora alla scuola di mia figlia, alla classe, i bambini si organizzano meglio, si organizzano molto meglio rispetto a questi, che dovrebbero organizzarsi in maniera semplice, e invece non si capisce una mazza, i rendiconti e poi quelli fino no, a giugno. Ma poi soprattutto a scuola di tua figlia come a scuola di mia figlia, per fare un gioco non lo decide la rete, non è che i bambini dicono adesso guarda sì, come si chiama mosca della... cieca sì, no vabbè. Ma quello mi manda i matti a me invece vabbè. Quella è una roba che ma manda, perché su questo... ogni cosa far decidere alla rete e la rendicontazione online che poi è ferma a giugno. Dici, ma perché è ferma a giugno? Ah, sì, perché... e dici no ma perché ora, ma dai, ma è una roba incredibile, se scusa. Uno vuole fare il rendiconto lo fa mese per appunto, mese appunto. E se uno vuole restituire i soldi li restituisce, no perché là non li ha restituiti, in parte l'ho dati alla Caritas, in parte l'ho dati a quelli, in parte non si capisce una mazza, cioè alla scuola, nella classe di mia figlia l'organizzazione è più semplice, più comprensibile, cioè qui non si capisce nulla, zero, eppure devono essere quelli della trasparenza, non si capisce una mazza. Eva, provincia di Ascoli. Ciao a tutti. Vai, vai, trovatemi l'intervento di Fiano, va alla direzione del PD, così lo sentiamo. Va bene, la discussione intorno al Rom, io ho fatto Donna Terra Terra, la mia conta personale, e sono arrivata al punto che ho detto negli ultimi 15 anni ho conosciuto personalmente 10 Rom e ci arriviamo per caso 10 politici a livelli diversi. Dei 10 Rom io direi, conoscendoli, che uno e mezzo verso le due erano culturalmente ladri. I politici che ho conosciuto, diciamo quelli che sono passati per la mia cucina. Per la sua cucina, che vuol dire per la sua cucina, scusi? Che hanno mangiato a casa mia. Perché i politici vanno a mangiare che a casa lei, sua, scusi? Chiedimi prima i nomi dei Rom, nel senso di questi politici, 7 erano decisamente ladri. Ma perché sono venuti a cena a casa sua, scusa? Non lo so, perché sono... Cosa fa lei di lavoro? Il mio campione di 10, anche se chiamo dalla profonda provincia, dove non ci sono campi Rom, ma non ci sono neanche campi di politici. Ma non ho capito niente. No, tu dovresti capire che i numeri propendono in quanto a culturalmente ladri. Cioè Ale dice che sono culturalmente ladri, se la Russa ha detto che i Rom sono culturalmente ladri dovrebbe dirlo anche dei politici, perché in proporzione sono più ladri i politici dei Rom. Il mio campione onesto, personale, dice l'inverso, dice che sono più culturalmente dedito al furto. OPM, Other People's Money. Vabbè, cara Eva, però parliamo italiano, che già abbiamo difficoltà a parlare italiano, in piedi lei ci mette pure il carico da 90 dell'inglese e siamo finiti. Allora, la cosa, lei, qual è la sua metafora che vuole fare di fronte alla frase di La Russa? La Russa dice: i rom sono culturalmente ladri. Lei che dice? Io dico che sono tranquillamente sotto la media dei politici. Sotto la media dei politici. Bene, provocazione non del tutto infondata di Eva. No, vabbè. Pubblicità. Oh, coglione, c'è la sua sorella! Fatta al culo! La Zanzara. Ti prego. Andiamo in provincia di Chieti, Giuseppe. Qui, fenomeno Cruciani, buonasera. Vai, dimmi. Senta, lei parla di tutto, però non parla mai della valutazione che la Confindustria ha fatto fare della sua trasmissione da una società di rating, no? Di rating, sì, sì, la società, sì. Di rating. Ma tu sei il solito Giuseppe della provincia di Chieti. No, non sono. No, allora, non sei tu, sei tu. Che cazzo dici? Non sei tu, sei tu. Dai, su. Oh, Cruciani, dimmi. Allora, lei che è un fenomeno, no? Perché non parla ma mai questo di questo? Questo lo dici valutazione? Tu, lo dici. No, non me ne frega, ma non so di cosa stai parlando. Allora, hai letto dove? Dove hai letto? E come è stata valutata la sua trasmissione? Sì, come è stata valutata? Una trasmissione decadente, spazzatura. Decadente. Quindi come decadente spazzatura, decadente, sì, sì, una trasmissione spazzatura, sì. E per questo ha ricevuto pure un bel richiamo, una lavata di testa. Ma quello no, ogni giorno ne ricevo, per cui non è un problema. No, mo stasera è particolarmente nervoso, ma arriverà pure un po' di camomilla, così si calma, no? Perché l'ha fatta incazzare quelle di Famiglia Cristiana lì. Vabbè, comunque, lei da fenomeno non parla mai di queste cose, no? Le cose che le convengono ne parla, ne spara, però le cose che non le convengono non parla mai. Allora, praticamente una trasmissione decadente è condotta da un decaduto, ok? Vabbè, poi... Che si considera un fenomeno, con una spalla, cioè fa il fenomeno, un decaduto, fa il fenomeno con una spalla a fianco, che è un cocainomane, no? Sì. Che cos'è un cocainomane? La sua spalla, no? Un cocainomane. Questo è un po' grave. Questo è grave. Questo è un po' grave. Questo vuoi perdere tre case? Vuoi perdere tre case, questo Giuseppe? È un po' grave. Vuoi perdere grave. No, le case sta sicuro che non le perdo. Posso non le consigliarle perdo di ritirare cocainomane, perché questo se no mi tocca davvero questa volta intervenire. Posso consigliarle questo? Perché lei non è un cocainomane? Che cos'è? Posso sommessamente chiederle, ti prego, davvero, di chiedere scusa per questa cosa, perché le assicuro che va a finire male. Io non chiedo scusa a nessuno. E allora va a finire male, mi dispiace. Vabbè. Va bene. Ma perché lei pensa che è un cocainomane, Parenzo? No, ma lascialo mi stare, spieghi, va a finire Giuseppe male. Perché? Gli ho dato la possibilità, perché non l'ha fatto. Perché pensi che sia un cocainomane? Perché? Si fa le canne, si fa la cocaina. Cioè, ma veramente la cocaina non l'ha mai detto. Ha detto che si è fatto ogni tanto nulla... e forse si fa ogni tanto qualche canna, punto. Esatto. Ma non l'ha detto. Ogni tanto. No, ogni tanto. Ma qualche canna. Ma io credo che tu hai bisogno di farti una. No. Io credo, Giuseppe, che tu hai bisogno di farti veramente una botta. Fatti un tanto una botta di cocaina, ti prego, fatti una botta, ti prego. No, no, ti prego. Lei se lo può fare, lei. Ti prego, tranquillamente, ti prego. Perché quando sta nervosa, no, tranquillamente va a finire male lei stavolta. No, ma purtroppo ti assicuro che io non mi sono mai fatto nulla, però ti prego, fatti una botta, Giuseppe. Ma l'ha detto proprio lei che se lo fa ogni tanto, crociamo. No, chi? Io che lei vuol fare il fenomeno con una spalla, una mezza sera. Va bene, però cioè, prova a mettersi una spalla al suo, cioè lei fa il fenomeno, no? Fa il conduttore, fa il fuori classe, e tutte le sere lei esce, deve uscire vincitore, no? Dalla sua trasmissione. Sì. Lei prova a mettersi come spalla uno che ha le palle, no? Non una mezza sega. Vabbè, questo va bene, ma sull'altra cosa, lei purtroppo deve mettere da parte un po' di soldini, mi sa. Guardi. Perché lei io le porto le mie, io ottimo, le porto le analisi del sangue e i capelli, sì, che dimostreranno che non ho mai fatto uso di quel tipo di droga. Taroccate. taroccate. Questa è la seconda querela per diffamazione che lei ha. Vabbè, quindi... Giuseppe, perfetta. Se le va bene così, siamo tutti felici. Ciao, amico mio, ti abbraccio fortissimo. Ti vengo a trovare in provincia di Chieti. Inizia a pagare. Ciao. Inizia già a mettere da parte i soldi. Caro Parenzo, qualche ascoltatore veramente tremendo ci manda. Tu non hai letto la cosa? Sì, la risposta di Fiano. Sì, no, ma stai tranquillo. Poi domani parleremo di questa roba qua. Ma questo è importante perché è bellissima la sentenza. Dio di freddi. Poi no, domani. Ma bisogna leggerla. Io l'ho letta tutta adesso. Ma ne parleremo in maniera. E io devo fare un endorsement poi. No, ma no, stai tranquillo. Non mi fare incazzare stasera, che già sono incazzato con questi di Famiglia Cristiana di nuovo. No, lascia la Famiglia Cristiana. Fare un endorsement a ogni maledetto Natale, che è un film zanzaresco, questo voglio dirti, è un grande film zanzaresco. Addirittura? Sì, perché tu non l'hai visto, è politicamente scorretto, è questa famiglia straordinaria, oltre ad esserci Corrado Guzzanti e Caterina, ma sai, Valerio Mastrandrea, eccetera, ma lo devi vedere. Guarda, Ogni Maledetto Natale è un film zanzaresco proprio, te lo voglio dire col cuore, da amico. Allora, qualche perché ascoltatore ci manda ogni tanto le telefonate che fa: smettetela di telefonare a Emilio Fede, smettetela, anche se avete quel maledetto telefonino, smettetela di chiamare Emilio Fede che si è rotto i coglioni. Ancora lo fanno, poverino. Ci mandano questi file, alcuni sono, Emilio purtroppo avvelenato per questa cosa, ha una reazione pazzesca, cioè risponde anche in maniera violenta a questi imbecilli che lo chiamano. Smettetela di chiamare Fede, no, gli rompete le palle, poveraccio, già in una situazione complicata, in più voi lo tormentate, e poi ci mandano le telefonate, registrano e ci mandano le telefonate, una cosa incredibile. Direttore, buonasera. Sì, ho aspettato. Buonasera. Ecco, direttore, sono Silvano, il mago di Positano. Da oggi aria nuova, tabula rasa, è sparito tutto, È sparito tutto, dico. Ma lei ha visto quando sono bravo? Ho fatto sparire contemporaneamente lavoro, casa e pure macchina. Però camminare fa bene, fa bene pure la circolazione, poi va bene sempre. Senti, no, ti voglio dire una cosa, ti voglio ringraziare, però rimane fra di noi. Mamma fa dei pompini che sono. Sai che c'è ancora la nel tua madre? Che meraviglia! Che meraviglia avere una mamma puttana come la tua. Però, direttore, posso chiedere una cosa? Adesso che è rimasto senza macchina, come fa a spostarsi? Mi ha rotto già abbastanza i coglioni. Tu, con la porca di tua madre che ti ha messo al mondo, un pezzo di merda. Ma fa bene alla circolazione camminare un po', Non andare in macchina poi. Mens sana in corpore sano. Direttore? E dove è finito? Sparito. Ma questa è la catenella, il cesso, grande, eccezionale. Quel genio di Fede è andato. Parenzo, non ti fa ridere sta roba? No, molto, ma farebbe innervosire anche me uno che chiama con quella voce. Direttore, sono il mago, c'è con la voce tutta... La cosa cioè, manderebbe ai matti anche me uno così, capito? È andato la catenella del cesso. Oddio, ragazzi. Ti abbraccio. Non è un cocainomane? Che cos'è? Ma no, dai, questa è una frase gravissima. Una frase gravissima, ti hanno detto che sei un cocainomane. Ma tu si può dire esatto. Che sei un cocainomane. Esatto, ce lo danno a me perché magari sono un po' così originale, sono un po' così ma matto. Ma io questo non credo, no? No, ma io figuro, io non ho mai toccato nulla in vita mia. Cioè, avrei una paura terribile a toccare qualcosa. Vabbè, Davide da Milano, su. A quello gli porto via tutto ora. Ma no, ma lascia perdere, dai. La stalla che ha, le galline, gli porto via tutta la stalla. Ma che ne sai che c'ha la stalla, scusa? Beh, no, la stalla sicuro. Ma perché? Buonasera, Cruciani. Dimmi, gli porto via la stalla, le galline, il fienile, tutto. Buonasera, Cruciani, Parenzo. Vai, dimmi. Ciao. Senta, una cosa, innanzitutto io vi ringrazio perché mi fate fare delle sganasciate di risate la sera e soprattutto faccio un pieno di parolacce che durante il giorno non si può assolutamente sentire visto il lavoro che faccio e ho la mia dose quotidiana. Su una cosa però mi permetterei di farvi un piccolo appunto se volete rifletterci o meno o rispondere in maniera diversa, e cioè il vostro atteggiamento nei confronti della materia gay. Vi spiego, voi siete bravissimi a esorcizzare un problema che è quello della discriminazione nei confronti dei gay, quello che si chiama diversity, che per anni in Italia... Diversity, sì. Perché diversity, amico mio? Diversity. Diciamo, non queste parole da politicamente corretto, diversity, no, si deve dire i froci, punto e basta, amico mio. Sì, i froci. Cruciani, lei sa benissimo esorcizzare in questo modo. Però si ponga questo dubbio. Rende in realtà un buon servizio a questa gente, nel senso, ma io non devo rendere buon servizio a nessuno, io sono a favore più di dire che sono a favore. Adesso mi è arrivato una mail da, perché così ci tirano pietre addosso da tutte le parti. Allora, Fabrizio Marrazzo, portavoce del Gay Center, signor Fabrizio Marrazzo, che conosco, tu pure lo conosci, Parenzo, no? Fabrizio, io conosco Piero Marrazzo. No, ma che c'entra Piero Marrazzo? No, non lo adesso? So, ma io conosco Piero, gli voglio anche bene, portavoce del Gay Center. Allora, caro Cruciani, leggiamo una mail abbastanza lunga, l'ultimo uscito in ordine di tempo nella tua trasmissione, quella di Ignazio La Russa, che è una sorta di gara a chi è più omofobo e razzista. No, veramente La Russa ha semplicemente ha fatto una battuta su Berlusconi, ha detto che è contro l'adozione gay. Adesso non è che se uno dice che è contro l'adozione gay è omofobo, non diciamo cazzate, dai, su. E poi mi invita, aspetta, ci sono modi meno trash per fare notizia, a meno che non si voglia fare di tutto per finire sui giornali senza curarsi dei contenuti. Cordialmente, Fabrizio Marrazzo. Nessuno ha mai vinto il premio come miglior giornalista per aver dato fiato alle trombe dei cretini. Allora, amico mio, che noi cerchiamo di tirare fuori l'omofobia nascosta nelle persone, nascosta. Su questo non c'è dubbio, nascosta o palese poi. Nelle persone. No, non è neanche nascosta. No, nascosta che poi viene tirata fuori. Ma questo dovresti darmi un premio per questo, dovresti darmi una coppa. Una coppa del Gay Center, medaglia alla Zanzara e al sottoscritto e forse anche a Parenzo. Questo è il punto, non mi devi rimproverare. No, non medaglie, ma opere di bene. Mi domando se sia il modo migliore, mi spiego. Ma non c'è un modo migliore, questa è una trasmissione radiofonica, non è i servizi per il prossimo, non è Famiglia Cristiana. Dai, sono fatti i sintomi. Ma che c'entra? Ma che c'entra? Siete un po' trend setter, lei. Guarda, se violiamo le leggi ci inchiniamo fino a un certo punto davanti alla legge. Domani, quando spiegheremo il modo in cui siamo usciti trionfatori dalla vicenda, da qualcuno che ci ha portato in tribunale per uno scherzo, una cosa ridicola, patetica, portarci in tribunale, lei si accorgerà del fatto che anche i tribunali almeno una volta ci danno ragione. Hai capito? Cioè... No, ve lo auguro. La cosa che mi domando è che secondo me si può trattare questa materia in modo anche... Quale materia? Quale materia? La materia di come vengono trattati e ghettizzati spesso ancora oggi in alcuni posti gli omosessuali, perché vede, fare l'omosessuale, sì, quello, a Milano... Ma quello fanno i cosi, quello fanno i... ci sono le trasmissioni di approfondimento, ci sono però, i racconti, ci sono gli altri... Perché ne dovrei parlare io? A parte che noi ogni tanto abbiamo ospitato qualche testimonianza di qualcuno, ma noi facciamo un altro mestiere. Ma la trasmissione di approfondimento non crea consenso. Il consenso lo crea la prima serata in televisione o la trasmissione radiofonica popolare come la vostra. Allora, secondo me, modestamente... Scusi, ma lei è omosessuale? No, io non sono omosessuale, ma diciamo, dico la banalità, ho tanti amici omosessuali che le assicuro, quando si parla per esempio di temi importanti come l'adozione, il matrimonio, eccetera, rabbrividiscono, perché loro che sono omosessuali, magari sono coppie anche considerate da più o meno tempo, ritengono assolutamente ridicolo per una coppia omosessuale, per esempio, voler adottare un bambino. È una, se ne può discutere tanto. Vabbè. Però creare questa lobby radiofonica, forse non so quanto rendiate bene. Beh, vabbè, non è un problema che mi pongo. No, mi scusi, ma non è un problema che mi pongo. Rossano da Grosseto. Come qua? Dimmi. Dico, una volta che mi chiama Eva Enger, non la riconoscete? Ma no, quella Eva prima d'Ascoli, ma non era Eva Enger, dai, non era Eva Enger. Ma quale Eva Enger? Che non l'abbia riconosciuta Parenzo, ci sta, lui va. No, ma Eva Enger, ma non era Eva Enger, dai, su. Ma te non l'ha riconosciuta, sì, ma dai, io qua. Ma no, a Grosseto. Sì. A Grosseto ci vedete male, Rossano. Vedete, io mica l'ho vista, l'ho sentita. Vabbè, già, insomma, avete un'idea piuttosto bizzarra. Eva Enger non c'entra niente. Allora non era lei, via. Eva Enger, ma vediamo, Eva Ascoli, vediamo se ha qualcosa a che fare con Ascoli. Adesso controllo subito, ma non credo proprio, dai, su. Non mi sembrava neanche dalla voce. Dalla voce Ascolana Doc non era, No, Ascolana Doc, no, quello sicuramente no. Vabbè, adesso controllo, Rosà, che mi dovevi dire? La voce niente, troppo anziana, no, ma molto... Eva Enger la sua età, No, non era anziana. La voce, no, ho detto la voce della persona che ha chiamato era una voce anziana. Però aspetta, qualcosa di con Ascoli vedo su internet. Una, fermi tutti, torniamo tra un attimo. La Zanzara. to let me know. Should I stay or should I go? If you say that you are mine, allora ci è appena arrivata la frase detta dal deputato del Partito Democratico Emanuele Fiano sulla Zanzara, che non nomino ufficialmente, alla direzione del Partito Democratico. Fiano dice: io voglio portare il signore che è intervenuto alla Zanzara davanti a un tribunale per rispondere delle sue frasi razziste, bravo, fasciste contro i Rom. A me pare francamente tutto esagerato. La mia approvazione. Per me è tutto esagerato. Ha ragione. Ma comunque ognuno fa quello che vuole nella vita, gliel'ho pure detto via Twitter. Sentiamo Fiano. Vorrei anche soffermarmi sul livello pericoloso di profondità che sta raggiungendo il razzismo nel nostro paese e il fascismo. Pochi giorni fa la trasmissione più seguita d'Italia radiofonica, La Zanzara, un ascoltatore non interrotto dal presentatore, ma contrastato dall'altro, sono due presentatori, ha proposto per i Rom dei termovalorizzatori, dove entrano i Rom ed esce mangime. In quella trasmissione radiofonica nessuno l'ha interrotto a questo signore. Noi faremo un'interrogazione parlamentare, ma io quel signore che ha detto che i Rom devono diventare materiale per termovalorizzatori lo voglio portare alla Procura della Repubblica, e vorrei che fosse il Partito Democratico a portare quel signore alla Procura della Repubblica. Il cobra non è un serpente, ma un pensiero frequente che diventa indecente. Quando vedo te, quando vedo te, quando vedo te, quando vedo te. Ha! Beh, che ricordi, amico mio, ricordi che non è che sono finiti, eh. Ma questa canzone io perché la Ma tu sei ignorante, sei ignorantissimo. Questa canzone voglio dire una cosa a Fiano, bene. Voglio dire una cosa a Fiano, poi riprenderemo domani, ovviamente. Fiano ha ragione, quello no, va denunciato alla quello, Procura vabbè, della io... Repubblica, portato in tribunale, vabbè, e messo davanti alle sue responsabilità. È bello che il Partito Democratico si costituisca, vabbè, ma parte civile. Per me sono tutte stronzate, ma comunque lascia perdere. Perché è una battaglia politica, vabbè, perché capito, questa gente... non fare comizio però. No, non è comizio, è l'hai realtà. L'hai detto. Io realtà, sono contrario realtà a questa cosa qua. Perché ma c'è non me ne frega niente. No, non me ne frega, sono contrario, ma va bene lo stesso, ognuno fa quello che vuole. Detto questo, amico mio Fiano, grazie per le parole, per la sua trasmissione, tutto quello che vuoi, però non è che io stavo zitto e Parenzo lo attaccavo pure io, stai tranquillo, cioè, puoi riascoltare quanto vuoi, lo attaccavo pure io. Ovviamente abbiamo un altro ruolo, io lo lasciamo un po' parlare, lui lo attaccava, l'orrore, se vogliamo, l'orrore, le viscere, bisogna conoscere anche fino in fondo, questa è la mia tesi. Parenzo, tu lo so come la pensi, non ti preoccupare, bisogna conoscere fino in fondo, c'è una cosa che fa schifo, la devi conoscere prima di attaccarla, come fai a non conoscerla? Ci sono trasmissioni, ci sono trasmissioni che mandano in onda frasi peggiori di quelle che abbiamo sentito, dello stesso livello, e nessuno dice nulla. Chissà perché adesso si alza Famiglia Cristiana e il Partito Democratico e non so chi altro a romperci i coglioni. Beh, perché a rompere a noi i coglioni. No, a noi, porta in tribunale quello non lì, mi interessa, quello tu che devi difendere, e tu devi difendere io questa trasmissione. Io difendo il tribunale, quello no, lì in tribunale. Questa trasmissione. Ma sì, che c'è? No, ma questo io sto parlando. Quello io, come ho detto, quello va in tribunale. Quello fai quello che la gente si deve assumere la responsabilità. Va benissimo. Perché quando fa l'800 24 00 24, prende il telefono. Vabbè, ma non è vero, ognuno dice quello che al centralino. Vuole, dai, ho capito, ma se uno dice uno è un fascista come quello, fino in fondo rivendica di essere un perché è un reato, che, è un incitamento all'odio. Frase detta così, ma dai, non su. È nulla, allora se è detta così non dovrebbe fare scandalo. Ma ha fatto scandalo perché la gente come non dovrebbe fare, scusa, ma è legittimo, io l'ho detto anche a Fiano. A te non fa scandalo quella roba? Ma sì, certo, e che allora fa scandalo. Basta, tribunale. Ma fine. Che vuol dire? Tutto quello che fa scandalo finisce in tribunale. No, quello che è violento, dai, quello su. Che è fattispecie di reato. Ma di fronte a questo mito che abbiamo in collegamento, dobbiamo parlare di questa roba qua. Di fronte a questo mito assoluto che abbiamo in collegamento, la signora Donatella Rettore, ciao, buonasera, come stai? Ciao, io volevo dire che per i termoregolizzatori. Sì, dimmi, cara. Va benissimo usare i Rom, basta che non si usino i Cobra vanno salvaguardati come tutte le specie animali. Però adesso specifichiamo, qui stiamo scherzando, perché altrimenti vai a finire in tribunale pure te, cara Donatella, capito? Ma figurati, ma vuol dire che in Italia non esiste più l'ironia? Beh, ma lì quella non era ironia. No, quella lì non era ironia, la tua però sì, cioè nel senso ma tutto tranne i Cobra, dici tu, tutto tranne i Cobra. Tutto tranne i copri? I cobra vanno perché si stanno estinguendo sempre di più di giorno in giorno. Non mi dire che sei pure... Io ho una passione per le tue canzoni, ma non mi dire che sei animalista di queste proprio sfegatate. Sì, ma non sono vegana, eh. Non sei vegana? Non sono vegana, cioè, ogni però sono vegetariana. La carne non la mangi? No, non la mangio. Ma perché fa male? Mangio le uova, il latte, il formaggio, il pesce. Grana. Il pesce, no, pesce no. Il pesce, guarda, cioè, pesciolini. Adesso divento seria e non vorrei diventare seria con voi perché... No, diventa seria. Mi intriga da morire. Però il pesce, i pesciolini, anche quelli piccinini... Sì. Le cozze non lo so, eh. Però le i pesci cozze... ti fanno un po' di tenerezza, dici. No, il pesce, sì. In quanto pesce, non so, la trota... Perché ammazzarle, dici? Il pesce spada... Hanno una loro storia di gerarchia e di capobranco, di... Che assomiglia un po' al lupo, per cui non può non essere simpatico il pesce. E dunque, secondo te è sbagliato ammazzarli, è sbagliato pescarli? Assolutamente. E poi ci sono delle cose che noi esseri umani facciamo, tipo che? Quello di uccidere uno squalo per fargli poi una battuta della pinna di pesce di squalo, perché, rende tutti quanti più... eccitati. Però scusa Donatella, io posso dire una cosa? Oggi ero a pranzo con un mio amico Giorgio Grasso, professor tutti Grasso. I giorni, cazzo, cioè, ma saranno cazzi miei con chi va da cena? Ma è magro? No, non è magro. Abbiamo mangiato in un posto a Milano. Ma io frequento il popolo, Parenzo, che devi fare? Frequento la gente normale, non frequento intellettuali, capito? Non frequento intellettuali di sinistra come te. Ma io anche non di sinistra. No, veramente anch'io. Anche tu, Donatella, sei come... Esatto, noi siamo, frequentiamo la gente normale, le taverne, le persone. No, era tu frequenti... Bucello sto weekend. Ma sì, ma c'è sempre un po' di snobberia. Ma comunque, al di là di questo, con un docente universitario di statistica. Senza nobiltà, a me piacciono i nobili. Ti piacciono i nobili? Mi piacciono i nobili di spirito, di spirito, d'animo. Certo. Ma tu te le fai professor Maltagliati, docente di statistica. Tu ti sei mai fatta, appunto, vedi, docente. Docente di statistica di Firenze, appunto, professor Maltagliati. Appunto, certo. Hai fatto? Io mi sono mai fatta. Ti sei mai fatta le canne in vita tua, sì? No. Mai. No, io non fumo neanche le sigarette. Mai nulla, droghe, canne, botte di cocaina, posso niente. Posso dire che io sono un'esperta di vini rossi. Cocaina, niente. Ma cocaina, io già sono isterica per conto mio. Isterica, diventeresti pazza. Diventeresti. Veramente, poi ricovero immediato. No, penso che in questo tuo libro, che ti hanno scritto un libro su di te che si chiama Magnifico Delirio, no? Esatto. Rettore Magnifico Delirio, è stato presentato a Milano qualche giorno fa, eccetera. Non c'è niente di curioso nella tua, che raccontano qualche cosa folle, sai, di queste qua, uso di droghe, cose di promiscuità. Posso dirti una cosa, che l'uso di droghe è talmente diventato una cosa normale, tutte le volte che c'è un incidente c'è questo che è embriaco, pieno di droga, non mi sembra una cosa maledetta, a me mi sembra maledetto uno che tutti i giorni va a messa, si frustra con un gatto a nove code. Cioè, in che senso? C'è gente che va a messa e poi si fa frustare col gatto a nove code? Sì, certo, si mette il cilicio, che soffre per i mali del mondo. Penso però che ultimamente ce ne siano molto pochi, perché molto i mali del mondo stanno venendo fuori tutti alla grande. Comunque, secondo te un cacciatore è un assassino? Assolutamente sì. No, dai, Donatella, pure tu con questa cosa. Domani metterò online, cara Donatella, domani. No, su questo non ci sto. Chi uccide per vivere sono i predatori, sì, e sono animali. Invece l'uomo che caccia, lupi, l'uomo che caccia. I cacciatori non hanno nessun bisogno di andare ad ammazzare, perché c'è chi... Ma è un hobby, è un hobby come un altro. Non... Vergognati. Ma lo so, ma è un hobby come un altro, lo dica. Non è un hobby come... Allora io ti vengo, ti sparo nei coglioni e ti dico: ma che bello, è un hobby come un altro. La differenza è chiara. Perché non si può mettere sullo stesso piano l'uomo e l'animale. Ne discutevo a pranzo. L'animale piano è al servizio dell'uomo. È al servizio che non sei altro. Ma assolutamente sì. Beh, no, non è che non è al servizio dell'uomo. Al servizio dell'uomo. Non l'animale nasce al servizio. Presuntuoso che non sei altro. Noi abbiamo bisogno degli animali, del loro aspetto. Ma tu quanti animali hai? Quanti animali hai? Due. Sei schiava degli animali. Io non sopporto quelli che diventano schiavi degli animali. L'altra volta uno non poteva uscire, un mio amico, sai, devo portare il cane fuori. Ma non è schiavo, lui trae affetto da quell'animale, giustamente. Senti, presentami il tuo amico che veramente è un mio amico, perché guarda che siamo la maggioranza. Ma che maggioranza? Vero, siete però, dei fanatici. No, però siamo, è vero, la maggioranza, che in Italia basta bambini, forza gli animali. Vabbè, ma come basta bambini, forza gli animali? Beh, no, questo è adesso... rompicoglioni che non sono altro, viziati. Ma che vuol dire? Questo scusa? Mi pare un po' eccessivo, cara. Senti, ma tu la usi la parola froci, cara Donatella? No, l'ho usata anche in una canzone che si chiama Figurine, che dice: voglio solo amici froci, un esercito di audaci, non ci tradiremo mai. Beh, brava, bravissima. Una lirica leopardiana. No, ma è bravissima, perché bisogna bisogna utilizzare. Sei anche un'icona gay tu, cara Donatella, lo sai, sì. Ma tutte, guarda, tutte le donne dello spettacolo sono delle icone gay. Poi alla fine, specialmente le maschiacce, diventano. Però ti posso assicurare che ecco, a me il Cobra mi piace moltissimo. Ma i gay pride ti piacciono? Sì, ma ne ho fatti 3000 di gay pride, mi sono divertita da matti, i miei migliori amici sono gay. Senti, ma a proposito, tu voti in Veneto, se voti? Sì, voto in Veneto. Alla Moretti, ti è piaciuta quella frase della Moretti sulla depilazione, candidata per il Partito Democratico? Sì, a me le lady like mi stanno. Sulle palle. No, non ho, ma non è solo quello che non hai, ti stanno sulle palle. Dice: io sono una lady like, ma che a me lo dici, amica mia, perché sfondi la porta aperta. Perché io ho fatto il linguistico, sono interprete parlamentare. Sì. Per me dire io sono una lady like non significa virgin, un cazzo, non significa un cazzo, like diciamo. A virgin, like like che? Shit, like bum, like what? Like what? Like a cunt. Sì, certo, che per cui come cosa? Per cui questa Moretti non la voterai, diciamo la verità. Dico proprio la verità che non voterò la Moretti, però voterò chiaramente, ho già un mio... Beh, o Zaia o Moretti, poi ci saranno altri candidati. No, Zaia no! Zaia no, la Moretti no, e chi voti? Ho un mio preferito che mi piace, che lo trovo simpatico, solo che purtroppo nel suo... Sì. Diciamo... Nel io, suo... se potessi, voterei Zanoni, perché... Chi è Zanoni? Zanonato, dici? Zanoni, Andrea Zanoni, che però purtroppo sta con la Moretti. Ok, sono candidati locali, vabbè, sì. Sta con la Moretti. Comunque la Moretti dice che, poi tra l'altro, la cosa incredibile della Moretti. Moretti ha fatto una cosa giusta, ha messo nel suo... No, aspetta un attimo, Donatella, scusa. Ha messo anche gli animali. Vabbè, gli animali li mettono tutti, dai. È un errore fondamentale. Ma lo mettono tutti gli animali, ma che vuol dire? All'ultima non lo sai la cosa più clamorosa, scusa. Questa primavera, se non quest'estate. Sì. C'è stata un'interrogazione appena è andato su Renzi, sì. per il quale io tifavo e adesso ho dei seri dubbi. Perché hai dei seri dubbi? Perché non sa fa niente. Non fa niente, dici te. Bla bla bla, e poi? E poi? E che ne so, dimmelo te, che poi che? E poi stiamo tutti aspettando. Stiamo tutti aspettando Godot. Stiamo aspettando Godot, ma non arriva Godot. Godot però... Però non si gode, però non si gode. Tu godi ogni tanto? Arcipicchia. se non lo facessi sarei molto arrabbiatissima. Fai sesso forte o no? Sesso forte. Sesso vuoi di quello? Che ti passi mio marito? Sesso hard, lo fai ancora sesso hard? Di quello no, proprio... io non ho mai amato il sesso hard. Io sono per la dolcezza e il cervello allo stato puro. Beh, però ogni tanto sesso hard, così anche con sconosciuti, ma no, è bello. Con ma sconosciuti. No, sesso hard, le cose. Con sconosciuti. Brutte, no. Con sconosciuti. Poi ho una pelle molto delicata, per cui. Beh, quello bisogna stare attento. Ma che vuol dire? Bisogna stare attento. Beh, che c'entra la pelle delicata? Sì, effettivamente ha ragione Parenzo. Non c'entra niente, non capisco cosa c'entra. La pelle delicata, non c'entra niente. Vabbè, comunque, cara Donatella, io ti saluto tantissimo, ma torna a trovarci a assolutamente, in questo covo di matti. La Moretti, tra l'altro, la cosa più incredibile che ha detto è che prima, una volta a settimana dall'estetista, poi incalzata da giornalisti, eccetera, eccetera, il giorno scorso ha detto: da tempo non vado dall'estetista. Così, unghie spezzate, nemmeno l'ombra dello smalto. Sa quant'è che non vado dall'estetista? Ma tu ti rendi conto, Parenzo, a che livello siamo arrivati? Sì. Vabbè, ma che c'entra? Ma tu fatto... sai da quanto non vado dall'estetista io? E tu, faccio tutto da sola, mi mangio le unghie. Pure? Sì. E te le metti a posto da sola? Sì, assolutamente. Io le unghie proprio, come le cose, sai, che si mettono i gel, quelle cose mi fanno orrore. I rom ti piacciono? Orrore, una cosa. I rom ti piacciono? I rom ti piacciono? Sì. I rom ti piacciono? Basta che non vengano a rubare a casa mia. Vabbè, ho capito. Come i froci, basta che quelli che dicono ti piacciono i gay. Io non ho problemi, basta che non mi rompo i coglioni. Ogni tanto qualcuno. Vabbè, i froci. Allora, voglio spiegare questo mio concetto. Sei stupenda. Allora, ci sono. Sei stupenda, comunque, lo sai, sei stupenda. Sembra quasi che hai bevuto, ma in realtà non hai bevuto, lo so, perché. No, così io ho bevuto. Hai bevuto? Cioè, ho bevuto un amarone Valpolicella buonissimo. Ti sei fatta una bottiglia di amarone? No, una bottiglia no, mi sono fatta un bel calice, però. Allora, ti voglio dire. Ma senza mangiare si vede. Aspetta, Donate, io però ti devo lasciare, che vedi c'è la sigla di fondo. No, però... ti devo dire questa cosa. Dimmi la differenza, dai. Dimmi. Telefono. Vabbè, dimmi la differenza. Dimmi. Allora, ci sono i gay che hanno fatto molte cose importanti. Sì. Per tutto il mondo. Ma sì, cosa vuol dire? Sì. Pare che Steve Jobs fosse proprio gay. Ma non è vero. Ma non è vero, ma di chi stiamo parlando? E poi? E poi che succede? E poi invece ci sono le checche. Beh, che vuol dire? Mi pare una distinzione. C'è le checche invece che sono? Le checche, quelle che si strappano i capelli, ah, sì, e si mettono le parrucche. Quelle non le sopporti. Che vanno fuori a fare il gay pride. Quelli non li sopporti. Se che si fanno le... No, quelli non li sopporti. Che raccontano palle. Ma dice che hai fatto 3000 gay pride. Vabbè, Donate, ti abbraccio, okay. Ti abbraccio fortissimo, ti abbraccio anch'io, fortissimo. Però ci sono i gay, è forza gay, perché i gay sono geniali. A domani. Boh. Vai, continua, Donate. Ciao. Viva i fraci! Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Ti prego. Perché lei non è un cocainomane? Radio 24. La passione si sente. Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. Vi ha presentato La Zanzara.